Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Bandiera a mezz'asta in tutta Italia e un minuto di silenzio in onore delle oltre 11.000 vittime italiane del coronavirus. Tutti a casa fino a Pasqua, il governo è intenzionato a rinnovare il lockdown almeno per 2 settimane, ma la ripartenza vera sarebbe a maggio. Confindustria stima un calo del PIL del 10%. Intanto uno studio dell'Imperial College di Londra calcola in Italia fino al 10% di contagiati asintomatici, molto di più delle cifre ufficiali. Burioni è d'accordo, Rezza invece più cauto, mi pare improbabile. Messina uccide la fidanzata e chiama i carabinieri, la vittima è una studentessa di medicina. Musica che unisce, l'evento in onda questa sera sulla Rai, da Bocelli a Marco Mengoni e Tiziano Ferro, tutti insieme, ma tutti da casa loro. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, quindi bandiera a mezz'asta oggi a mezzogiorno in tutto il paese per onorare la memoria delle vittime del coronavirus, una iniziativa voluta dai sindaci. È stato inaugurato intanto a Milano, alla Fiera, all'ospedale stamattina, i primi posti disponibili da lunedì prossimo. Vi parleremo anche in questa puntata del protocollo in Emilia-Romagna per la cura da casa dei pazienti meno gravi. Molti pazienti lamentano di non avere ricevuto assistenza da casa. Ebbene, dall'Emilia-Romagna forse arriva una svolta. Il governo intanto fa sapere che le misure proseguiranno almeno fino a Pasqua, mentre uno studio dell'Imperial College di Londra, come avete sentito nei titoli, stima in Italia un numero di contagiati molto superiore rispetto alle cifre ufficiali, quasi il 10%. Ne parleremo tra poco, partiamo dall'iniziativa di commemorazione di oggi. Un minuto di silenzio, bandiere a mezz'asta e sindaci con la fascia tricolore in tutta Italia a mezzogiorno è stata un'iniziativa raccolta da tutte le istituzioni, quella partita dalla provincia di Bergamo e rilanciata dall'Associazione Nazionale dei Comuni per ricordare le vittime del Covid-19 e ringraziare medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro l'epidemia. In queste ore intanto le amministrazioni comunali sono al lavoro per organizzare la distribuzione dei fondi destinati all'acquisto di generi alimentari stanziati dal governo per le famiglie meno abbienti, 400 milioni sotto forma di buoni spesa che però basteranno solo per 2 o 3 settimane. Avvertono i sindaci, alcuni dei quali hanno deciso di integrare le risorse statali con fondi propri. Impegnati in prima linea sono anche i presidenti delle regioni, che nel pomeriggio si riuniranno in videoconferenza per fare il punto della situazione. Il governatore del Piemonte Cirio questa mattina ha fatto sapere che chiederà al governo poteri straordinari per gestire l'emergenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È una delle questioni più discusse in questi giorni, parliamo dell'approvvigionamento, della carenza di dispositivi di protezione ma anche dei macchinari utili per gli ospedali. Ebbene, su tutto questo è stato fatto un punto nella conferenza stampa del commissario Arcuri. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri prova a superare le polemiche con le regioni dei giorni scorsi sulle forniture di mascherine e dispositivi medici. In conferenza stampa ha annunciato che sono online aggiornati ogni giorno i dati sulle forniture divisi per tipologie e per regioni. Ma sentiamo Arcuri sulle mascherine, sulle quali il fabbisogno è di 90 milioni di pezzi al mese. Abbiamo in questi giorni acquisito 300 milioni di mascherine che arriveranno progressivamente presso i magazzini della protezione civile e verranno puntualmente distribuite con un criterio concordato con la totalità delle regioni di destinazione. Spesso però nei giorni scorsi i materiali partivano da Roma ma non arrivavano alle regioni, da qui la mossa di Arcuri: scenderà in campo l'esercito. Utilizziamo aerei del Ministero della Difesa e anche di Leonardo, e utilizziamo personale della difesa che si muove anche su gomma. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è anche in queste ultime ore una notizia che fa discutere. I numeri del contagio in Italia e in Europa potrebbero essere molto più elevati. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, riportato anche dal virologo Roberto Burioni, nel nostro paese i casi avrebbero toccato il 10% della popolazione. In Spagna addirittura il 15% della popolazione. Più cauto nell'analisi Giovanni Rezza, che dice: mi pare poco probabile una cifra del genere, ma a Bergamo, secondo il sindaco Gori, il numero dei decessi reali farebbe pensare a una quota addirittura del 30% della popolazione locale contagiata. E proprio in Lombardia si accelera sulla costruzione dell'ospedale alla Fiera di Milano. Abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta, lo ha scritto Guido Bertolaso in un messaggio letto alla presentazione dell'ospedale Fiera Milano, costruito in 10 giorni per l'emergenza coronavirus. Dopo il collaudo condotto da un team di ingegneri volontari, saranno attivati da lunedì tra i 12 e i 24 posti letto, dei 200 previsti a regime. L'ospedale Covid vedrà impiegati 200 medici, 500 infermieri e altre 200 figure professionali, spiega Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano, che gestirà la struttura, che potrà fare da modello ed essere replicata. Il governatore lombardo Attilio Fontana. Tant'è vero che il governo ha già detto di volere riprodurre la cosa che noi abbiamo fatto qui in fiera al centro d'Italia e a sud d'Italia. Gli ultimi dati sui contagi e ricoveri in regione sono confortanti, dichiara l'assessore al welfare Giulio Gallera, e come strumento fondamentale di prevenzione arrivano le mascherine made in Lombardia, testate dal Politecnico. Stiamo attendendo, conclude Gallera, e vorrei che fosse sbloccato l'ultimo ok definitivo dell'Istituto Superiore di Sanità. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E fuori dall'Italia preoccupano soprattutto le impennate di casi negli Stati Uniti e in Spagna. L'epidemia è tutt'altro che finita. In Asia e nel Pacifico questa sarà una battaglia a lungo termine, non possiamo abbassare la guardia. Parla di comparsa di nuovi focolai e cita Singapore, la Corea del Sud, il direttore regionale dell'OMS per il Pacifico occidentale Takeshi Kasai. E questo il nuovo grande allarme dunque che rimbalza dalla Cina, il pericolo cioè che il Covid-19 torni a diffondersi nei paesi in cui è stato bloccato. Nel mondo il numero dei contagi resta ancora impressionante, si parla infatti di quasi 800.000 persone positive, di 35.000 vittime, la maggioranza delle quali in Europa. Tra i paesi più colpiti nel pieno del guado ci sono gli Stati Uniti, con un numero di morti che va oltre i 3.000, una situazione drammatica in Spagna, dove il bilancio delle vittime è di 7.340, 85.000 i positivi. Raddoppiati in una settimana i casi di contagio in Germania, 652 le vittime, 2.800 i morti in Iran, coi suoi 41.500 contagi. E a questa lista mancano i dati dell'Africa. Secondo il Centro di Controllo delle malattie dell'Unione Africana, la pandemia avrebbe già colpito 46 paesi su 54. Le cifre fornite sono influenzate dalla difficoltà di testare i malati e stabilire le cause dei decessi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia, dove in queste ore si inizia a valutare anche tempi e modi della ripartenza prevista tra fine aprile e inizio maggio, ma soprattutto le conseguenze economiche del coronavirus. Se ne è occupato anche un rapporto del Centro Studi di Confindustria. L'emergenza coronavirus ha colpito al cuore l'economia italiana, uno shock imprevedibile che affonda il prodotto interno lordo con un calo del 6% nel 2020. Se, avverte il Centro Studi di Confindustria, la fase acuta dell'emergenza sanitaria terminerà a maggio. In caso contrario, la stima del 2020 va rivista a ribasso, considerando che nel primo semestre dell'anno il PIL calerà del 10%. L'anno prossimo ci sarà un rimbalzo e si tornerà a crescere del 3,5%. La ripresa dovrebbe partire a giugno, dice il direttore del Centro Studi di Confindustria, Stefano Manzò. Dopo la caduta durissima dei primi due trimestri, una progressiva ripresa che speriamo si consolidi piano piano a partire da giugno e poi nel terzo e quarto trimestre dell'anno. C'è il rischio che la recessione si trasformi in depressione prolungata, con un aumento drammatico della disoccupazione e un crollo del benessere sociale, avvertono gli economisti di Confindustria. Bisogna quindi agire in fretta con interventi massicci che oggi nessuno conosce, e un piano europeo potrebbe aiutare la ripartenza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito della situazione economica, sono in via di definizione i criteri e le modalità per l'accesso alla cassa integrazione per le aziende, ma anche al fondo per i lavoratori autonomi. Ne ha parlato oggi a Radio 24 il ministro per lo sviluppo Patuanelli. A 24 Mattino dice che questi fondi saranno erogati entro Pasqua. ciò che conta è il tempo in cui queste misure dispiegano gli effetti. Non potevamo pensare di attendere mesi per poter pagare la cassa integrazione alle persone che oggi sono a casa e che non lavorano e che hanno quella come fonte di sostentamento. Quindi c'è stato un ottimo lavoro fatto dalla ministra Catalfo assieme ad ABI e alle parti sociali. Attraverso questa convenzione, questo accordo, di fatto entro Pasqua ci sarà l'erogazione del primo assegno della cassa integrazione. E ora una notizia di cronaca che ci porta in Sicilia, nel Messinese, dove una studentessa è stata uccisa dal fidanzato che poi ha chiamato i carabinieri. Stare a casa per alcune donne significa evidentemente violenza, le chiamate ai centri però diminuiscono. Noi ci siamo, ribadiscono gli stessi centri a disposizione delle donne. Sentiamo. Una donna è stata strangolata dal compagno a Furcisicolo, in provincia di Messina. A chiamare i carabinieri lo stesso assassino che ha tentato di togliersi la vita. La vittima è Lorena 40 di Agrigento, studentessa alla facoltà di medicina di Messina. Il compagno, anche lui studente di medicina, è Antonio De Pace di Vibo Valentia. Da inizio anno sono più di 20 femminicidi in Italia, oltre 130 nel 2019. Nel 60% dei casi autore delle violenze il partner o l'ex. E in questo momento di convivenza forzata per l'epidemia di coronavirus il fenomeno rischia di acuirsi. Dall'8 al 15 marzo le chiamate al 1522, servizio antiviolenza del Dipartimento Pari Opportunità, sono più che dimezzate e anche le denunce sono in calo, ma negli ultimi giorni vi è una ripresa dei contatti, ci spiega Antonella Veltri, presidente dire Donne in Rete contro la violenza. Ribadiamo con forza la nostra posizione. Noi ci siamo sempre state e continueremo a starci. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutto pronto per la serata Musica che Unisce, in onda su Rai 1, raccolta fondi interamente destinata alla protezione civile, con tutte le star della musica, dello spettacolo, dello sport in collegamento dalle loro abitazioni. Una lunga staffetta dei grandi nomi della musica italiana, senza interruzioni pubblicitarie, con la voce narrante di Vincenzo Mollica. È Musica che Unisce. Ok, vai, centesima take, questa deve essere quella buona per forza. Prima take, infatti, one take. Infatti, in realtà, subito. Prima take, mi sa sbagliato, dai. Vai. In my eyes, in this pose, in disguise at all. Così Maneskin raccontano su Instagram come si stanno preparando all'evento che questa sera andrà in onda su Rai 1. I nomi sono tantissimi, da Cesare Cremonini a Andrea Bocelli, da Giuliano Sangiorgi in duetto a distanza con Diodato, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari che dedicheranno Bergamo alla loro città così colpita, ma anche Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro da Los Angeles, Francesca Michieline Fedez, Alessandra Amoroso ed Emma, Bruno Risas, Elisa, Francesco Gabbani, Il Volo e altri ancora. Ognuno da casa sua, come molti attori e campioni dello sport. Per tutta la serata, in sovraimpressione, l'IBAN per le donazioni alla protezione civile. Donazioni che si potranno fare anche con carta di credito. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 13 minuti, facciamo una pausa. Effetto Giorno torna tra poco con le altre notizie. Abbiamo parlato spesso in questi giorni della possibilità di curare il Covid da casa. Ebbene, torneremo a farlo perché sono tantissimi malati che da casa chiedono aiuto, ricevono un'assistenza limitata. Si è cominciato a farlo in alcune zone, a macchia di leopardo, dipende dalla volontà dei medici, dagli strumenti che hanno a disposizione spesso. Il fatto è che non esiste ancora un protocollo nazionale per tutto questo. Vi racconteremo il caso invece del protocollo nato, un protocollo specifico in Emilia-Romagna che potrebbe diventare invece un modello anche per il resto d'Italia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Bandiere a mezz'asta in tutta Italia, un minuto di silenzio in onore delle oltre 11.000 vittime italiane del coronavirus. Tutti a casa fino a Pasqua, il governo è intenzionato a rinnovare il lockdown almeno per 2 settimane, la ripartenza vera a maggio. Confindustria stima intanto un calo del PIL del 10%. Uno studio dell'Imperial College di Londra calcola in Italia fino al 10% di contagiati asintomatici, molto di più delle cifre ufficiali. Burioni è d'accordo, Rezza cauto, mi pare improbabile. In Emilia-Romagna intanto il protocollo per le cure a casa del Covid-19 nasce a Sant'Orsola di Bologna. A effetto giorno il direttore di malattie infettive, Pierluigi Viale. Le 13:16, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli delle notizie di oggi. Allora, come annunciato, è con noi il direttore di malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, Pierluigi Viale. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, per aver sottratto anche un po' del suo tempo che trascorre in reparto normalmente per parlare un po' con noi. Ieri c'è stata una sua dichiarazione, professore, che ha colpito la nostra attenzione. Lei ha detto: il vero centro della partita si gioca prima della terapia intensiva, si gioca a casa dei pazienti. Fino ad oggi ai pazienti con sintomi si diceva di prendere la tachipirina, ma se hai il Covid la febbre non scende. Dopo 10 giorni di febbre, se e quando il paziente diventava più grave con insufficienza respiratoria, allora lì si decideva di ricoverarlo, ma questo non deve più succedere. Il malato che ha la febbre oggi, nell'era Covid, è un malato che fino a prova contraria deve essere gestito come un Covid. Noi ne avevamo parlato anche ieri con il professor Cavanna di Piacenza, che ha iniziato qualche tempo fa a curare pazienti oncologici proprio in questa maniera, un caso molto specifico. Abbiamo avuto anche tante messaggi, professore, glielo dico, di persone che invece dicono non è vero, lamentano il fatto di essere a casa, di aver chiesto aiuto e nessuno che li abbia visitati, se non in pochissimi casi. Credo di aver capito perché manca a livello nazionale un protocollo. Voi avete iniziato a farlo invece tutto questo da un po' di tempo. Intanto le chiedo, proprio con un protocollo specifico, poi le chiedo: è vero che a livello nazionale non c'è una previsione di questo tipo di intervento, un protocollo? Guardi, io agisco a livello di Bologna e a livello di Emilia Romagna, quindi non ho informazioni su quello che succede a livello nazionale, per cui non posso rispondere a queste domande. Certo. Per quanto riguarda invece la nostra idea, che non credo sia un'idea particolarmente innovativa, perché sono certo che molti altri miei colleghi infettivologi di altre parti d'Italia lo stiano facendo, ci hanno pensato, secondo me esaurita la prima ondata di infezioni e quindi, come dire, defesi un po' i pronti soccorsi, adesso stiamo assistendo a un fenomeno caratterizzato dal fatto che arrivano meno pazienti ma più gravi e più giovani, e sono tutti pazienti che hanno resistito per giorni all'ipossia e alla malattia a casa, forse con un'interpretazione distorta del messaggio iniziale: se avete la febbre state a casa. Ecco, questo può essere, mi scusi se faccio solo questa precisazione e poi la faccio proseguire, forse può essere questo un primo punto da sottolineare, cioè il messaggio che è arrivato naturalmente forte e chiaro per tutti, state a casa, ma anche un messaggio passato dalle autorità nazionali sul fatto che non bisogna andare al pronto soccorso, ma bisogna chiamare le autorità per capire come essere trattati, e poi di lì, se non si era gravi, non si veniva in pratica trattati se non con della tachipirina. Questo può essere forse stato il primo punto, se non di errore, diciamo di una interpretazione che ha generato questa seconda ondata di cui parlava lei. Prego. Ma lei fa il giornalista, quindi avrà visto decine e decine di soloni che vanno in televisione a parlare come esperti di Covid. In realtà esperti di Covid non esistono nel mondo occidentale, perché una malattia nuova. Questa malattia 2 mesi fa non c'era, quindi nessuno la conosceva, quindi è una guerra contro un alieno questo. Quindi le nostre conoscenze sono scarse e maturano giorno dopo giorno. Giustissimo. Bisogna avere l'onestà intellettuale di aggiornare i modelli. All'inizio questo messaggio era corretto, perché non bisognava intasare i pronti soccorsi. Adesso abbiamo capito che la precocità dell'approccio a questi pazienti è fondamentale per evitare che una quota di questi pazienti evolva verso le forme estreme della malattia, verso le forme di massima gravità che poi portano a occupare posti letto in terapia intensiva e purtroppo hanno causato anche una strage. Ecco, professor Viale, è importante, lei dice, prevenire. Abbiamo imparato a conoscere questa malattia. Adesso sappiamo che si può intervenire in una fase iniziale. Per fare cosa? Per dare che tipo di medicine e creare che tipo di decorso diverso rispetto a quello che invece abbiamo imparato fin qua? Cioè l'aggravarsi, poi il bisogno di essere sostenuti nella respirazione, quindi poi la terapia intensiva, eccetera. Qual è l'alternativa? Noi abbiamo capito due cose, non parliamo di prevenzione, ma parliamo di terapia precoce. Noi abbiamo capito due cose in questi cinque settimane, che il supporto ventilatorio precoce ai pazienti è fondamentale per evitare l'evoluzione della malattia e quindi prima li prendiamo meglio è. E questa malattia ha una fase di ipossia silente che il paziente paradossalmente sopporta senza rendersi conto di avere invece un peggioramento delle sue funzioni respiratorie. Terzo, abbiamo capito che tutti i farmaci antivirali che abbiamo a disposizione funzionano nella misura in cui sono usati precocemente. Quindi il messaggio deve cambiare e deve diventare: se avete la febbre, aspettateci che vi veniamo a prendere. Ecco, questo è un messaggio molto importante da dare. Se avete la febbre, aspettateci che vi veniamo a prendere e vi diamo questi medicinali, se ho capito bene, professore, questi antivirali, che non sono medicine, diciamolo chiaramente, specifiche per il Covid, perché il Covid è una malattia nuova, però sono antivirali che avete già a disposizione, ma se usati per tempo possono avere una loro efficacia, giusto? Sì, questo sì. Guardi, nella giornata di domenica che abbiamo incominciato a rodare la macchina, sono arrivate alla prima ondata, sono arrivati 35 pazienti al nostro pronto soccorso. E di questi 35 pazienti, 7 sono stati ricoverati, ma non sono stati ricoverati in terapia intensiva, sono stati ricoverati nei reparti Covid, non di terapia intensiva. Erano tutti pazienti che sono venuti su input del medico di medicina generale, perché il nostro progetto parte dall'impegno dei medici di medicina generale che fanno lo screening fonico ai pazienti, e questi sono venuti su input del medico. Generale, 7 di questi 35 sono stati ricoverati in area Covid. Questi erano tutti pazienti che, se fossero rimasti a casa ancora 3-4 giorni, probabilmente sarebbero arrivati direttamente in terapia intensiva, magari con una condizione tale da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Poiché i letti in terapia intensiva sono preziosissimi, sì, e ancora più preziosa è la vita dei nostri pazienti. Certo. Ecco, cerchiamo di essere rapidi, accettiamo pure di riempire di nuovo i pronti soccorsi di gente con un'ottica diversa, di cura precoce, sì, perché ha paura. Ma bisogna cambiare il paradigma gestionale, bisogna essere molto tempisti. Senta, ma lei, che diciamo queste 7 persone che avete ricoverato domenica, e che lei dice se non l'avessimo prese per tempo, molto probabilmente erano destinate a andare poi davvero in terapia intensiva, dal decorso di questi primi giorni ha ragione di credere che eviteranno il passaggio in terapia intensiva, cioè che veramente questa cura precoce serve per cambiare il decorso della malattia? Sì. Secondo me sì, in una quota rilevante di pazienti sì. In più c'è anche un obiettivo di sanità pubblica, perché la terapia precoce aumenta la velocità con cui il paziente si libera del virus, e quindi potrebbe avere anche una ricaduta in ottica di sanità pubblica. Dal punto di vista logistico, certo. Riusciamo a ridurre il numero di pazienti che potenzialmente possono spargere il virus. Quindi... Senta, una precisazione, se ho capito bene. Questo è il protocollo che avete attivato voi a Bologna. Non ho capito se vale per tutta la regione Emilia-Romagna? Guardi, adesso stiamo facendo l'esperimento, stiamo testando a Bologna, e poi sono sicuro che diventerà un'azione di livello regionale, perché altri miei colleghi in Emilia-Romagna sono dello stesso parere, si stanno muovendo sulla stessa linea d'onda. Senta, speriamo naturalmente che quello che lei ci ha detto si confermi, ma ne siamo fiduciosi, perché abbiamo ragionevole certezza, visto quello che lei sta facendo sulla base della sua esperienza, ma anche del fatto che avete già iniziato a farlo, ma anche e soprattutto che si cominci a fare in Emilia-Romagna, in Lombardia, dove invece tante persone chiamano, continuano a chiamare anche noi per dirci che hanno chiamato il medico, ma il medico non può andare perché ha già altro carico di lavoro, oppure non viene considerato il paziente abbastanza grave. Una differenza significativa mi sembra che voi poi portate le persone in ospedale, quindi anche è un modo, se ho capito bene, per non disperdere le forze, cioè anziché un medico che si fa il giro di 4 pazienti, li portate in ospedale e, come dire, li potete seguire a gruppi anche più ampi, con un minor numero di forze. Sì, anche perché una delle cose che ci manca di più, sono i dispositivi di protezione individuale. Quindi se per ogni medico che va a vedere un paziente è una vestizione completa, mentre invece se riusciamo a raggruppare i pazienti, adesso dico in pronto soccorso, ma se saranno tanti faremo anche dei checkpoint periferici nelle case della salute e così via, sì. Significa vedere tanti pazienti con una sola vestizione, e in un momento in cui oggigiorno contiamo le mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale e vediamo che siamo sempre in una situazione al limite, sì, per disponibilità, dobbiamo anche risparmiare in questo senso qua. Certo, è un modello oneroso, perché ieri nel pronto soccorso di 2 pronti soccorsi di Bologna che da qualche giorno respiravano, erano di nuovo intasati. Intasati no. Perché i medici di medicina generale fanno un triage telefonico preziosissimo, sì, che permette loro di dare 4 livelli di priorità di accesso in pronto soccorso, quindi codici rossi e rossissimi li mandano in pronto soccorso al volo, gli altri vengono programmati. Quindi con un po' di organizzazione che stiamo rodando si può aumentare il flusso in pronto soccorso senza generare le code fuori dal pronto soccorso. Senta, un'ultima cosa, professor Viale, prima di salutarla, le voglio chiedere un suo parere su questo studio che arriva dall'Imperial College di Londra di qualche ora fa, ma che è fermo al 28 marzo, e che dice che ha fatto una stima di quanti potrebbero essere i reali casi di contagio in tanti paesi europei. In Spagna addirittura il 15% della popolazione è contagiata, in Italia fino al 10%. È uno studio che credo parta dal numero di decessi certificati, quindi dai dati oggettivi. È un gruppo di epidemiologi di fama mondiale, lei naturalmente sa di cosa stiamo parlando. Lei ritiene verosimile questa stima per l'Italia, cioè una media così alta di contagi? Intanto i lavori bisogna leggerli con attenzione. Qual è l'intervallo di confidenza? Quindi 10 è il 9 qualche cosa, è il valore, sì, massimale, cioè la worst prevision, nel senso che in realtà loro stimano un valore intermedio, poi sempre si danno gli intervalli di confidenza. Quindi nell'ipotesi peggiore ci potrebbe essere il 10% della popolazione, ma in realtà la stima si fissa su circa 3 milioni di persone infette. Secondo me è una stima, in questo momento è corretto avere delle stime al rialzo, cioè non è che perché sono, sì, abbiamo una apparente una lieve riduzione dei casi, un trend finalmente di una curva che non è più esponenziale ma è diventata una curva che cresce più lentamente, non è che per questo dobbiamo incominciare già a pensare di essere usciti da... No, certo. Bisogna con cautela prendere questi allora, dati e non interpretarli come un segnale di liberi tutti, assolutissimamente, certo. Io la ringrazio, professor Viale, grazie davvero per essere stato con noi. Credo che questa intervista sia stata particolarmente significativa perché, come dire, avete capito che si tratta di un modo nuovo di curare i casi attivi di Covid nel nostro paese, partendo da Bologna e credo in regione Emilia-Romagna, ma spero, ragione di credere, che si stia facendo anche altrove e che chi, magari qualcuno all'ascolto, possa in qualche modo cogliere questi segnali. Un altro approfondimento prima di andare in pausa, perché continuano ad esserci sequestri di materiale sanitario, materiale dispositivo, dietro dispositivi di protezione, dietro a questi sequestri spesso c'è la mano della criminalità e delle organizzazioni mafiose. Ce ne parla Daniele Biacchessi. mai così silenziose, mai così forti e pericolose. In questo modo si presentano le mafie al tempo del coronavirus. Le restrizioni imposte per contenere il contagio non bloccano gli affari delle mafie autoctone e straniere nel nostro paese. Fin dalle loro origini le organizzazioni cambiano pelle sempre in base ai mutamenti della società. Così accade anche oggi. Le mafie sfruttano la maggiore attenzione delle forze dell'ordine nei controlli per gli spostamenti dei cittadini. La chiusura delle attività giudiziarie per affinare vecchie tecniche criminali e avviare nuovi business. Secondo alcuni componenti della Commissione Antimafia, le cosche strumentalizzano i disagi dei cittadini e compiono atti di sciacallaggio sul materiale sanitario, come già peraltro emerso dalle ultime indagini. Ha ragione dunque il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao quando avverte che in questa situazione di emergenza le mafie potrebbero intervenire con più incisività nei settori ortofrutticoli, grande distribuzione agroalimentare, nel comparto dello smaltimento dei rifiuti speciali divenuti oggi ancora più strategici. Le organizzazioni puntano certamente sulla ricostruzione, con l'obiettivo chiaro di controllare numerose attività economiche e legali entrate in crisi. Questa sarà la nuova frontiera dell'antimafia. 13:31 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno. 349-238-6666, parleremo anche di come l'agricoltura italiana potrà affrontare questa fase, una fase dove si prevedono raccolti, dove c'è bisogno di manodopera, ma dove si deve cercare chiaramente di allineare le esigenze dell'agricoltura con le misure di distanziamento sociale e tutte le misure restrittive previste giustamente dal governo. A tra poco. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Borse in diretta. Ancora una buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi è stata una giornata che ha avuto delle facce diverse, perché le borse erano partite molto bene, poi hanno avuto un rallentamento in Europa, poi hanno di nuovo recuperato. Tiene banco, in particolar modo a Piazza Affari, ancora il tema bancario. All'indomani della raccomandazione, che in realtà è arrivata a venerdì, dalla Banca Centrale Europea alle banche europee, appunto, di sospendere momentaneamente la distribuzione di dividendi e i piani di buyback, ieri hanno deciso molte banche e oggi è ritornata a fare come era nelle attese, è arrivata a farlo anche come era nelle attese Banca Intesa San Paolo, e questa notizia si è fatta sentire immediatamente in borsa con un notevole ribasso del titolo, una circostanza che per la verità si era manifestata già ieri. I titoli bancari sono quelli di nuovo infatti oggi particolarmente sotto pressione, mentre in positivo abbiamo il comparto petrolifero che recupera pure dopo giorni di grande difficoltà sulla scia del recupero del prezzo del petrolio, che però viaggia ancora ai minimi da tre mesi a questa parte. Il WTI americano a $21.50, il Brent a Londra a 27. Eni a Piazza Affari, miglior titolo in questo momento, con un progresso di 5.5 punti, Atlantia più 4.69, Fiat più 2.12%. Fra i peggiori segnaliamo Prysmian meno 3, Unicredit meno 2.32%, e Recordati con gli altri farmaceutici che oggi perdono dopo i rialzi di ieri. La stessa Intesa a Piazza Affari adesso segna meno 1,35%, aveva però perso molto terreno. Bancari sotto pressione anche per la nuova divaricazione dello spread, che gravita intorno ai 200 punti base. Per, tra l'altro, mercato obbligazionario oggi sotto osservazione, con le aste dei titoli di Stato che hanno manifestato soprattutto sul BTP decennale rendimenti in forte rialzo. È tutto, i mercati tornano alle 14.30. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, bandiera a mezz'asta in tutta Italia, un minuto di silenzio in onore delle oltre 11.000 vittime italiane del coronavirus. Tutti a casa fino a Pasqua, il governo è intenzionato a rinnovare il lockdown almeno per 2 settimane, Confindustria stima un calo del PIL del 10%. Superati 800.000 casi al mondo, preoccupa l'impennata di casi negli Stati Uniti e in Spagna. Intanto uno studio dell'Imperial College di Londra calcola in Italia fino al 10% di contagiati asintomatici. Messina uccide la fidanzata e poi chiama i carabinieri. La vittima è una studentessa di medicina. Musica che unisce, l'evento in onda questa sera su Rai 1, da Bocelli a Marco Mengoni e Tiziano Ferro, tutti insieme ma tutti da casa loro. minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina del programma, sul sito di Radio 24 o sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Marta scrive: è un sollievo sentire il professor Viale di Bologna, finalmente una strategia di guarigione che parte dall'inizio della malattia e non dalla fine, cioè la rianimazione. Con tutto il rispetto che qualunque sforzo per combattere il virus richiede, abbiamo bisogno di cominciare a pensare a soluzioni così strategiche, non solo di contenimento. Altri ascoltatori commentano appunto la intervista al professor Viale del Sant'Orsola di Bologna. Quali sono i farmaci utilizzati dal protocollo di Bologna, scrive quest'altro ascoltatore? Sono degli antivirali e, se ho capito bene, recentemente autorizzati anche dall'AIFA a carico del sistema sanitario nazionale. Anche Zingaretti è stato curato con antivirali, scrive un altro ascoltatore. Insomma, così i vostri commenti all'intervista del professor Viale, che, ripeto, apre una strada a questo punto del contenimento dell'epidemia di coronavirus, una strada che sembra oggettivamente diversa. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Oggi in tutta Italia le bandiere sono a mezz'asta. Il paese delle istituzioni ricorda l'apocalisse del paese reale, dei lutti e delle tragedie, con quegli 11.591 morti fino a ieri. Ciò che conta ora è non perdere la lucidità nel gestire l'exit strategy, nel continuare la pratica del distanziamento sociale per evitare di vanificare quanto fatto fino adesso, che tra l'altro, secondo i calcoli dell'Imperial College di Londra, ha salvato almeno 38.000 persone. Ora, la difficoltà maggiore per chi ha le leve della politica economica è seguire il doppio passo della gestione dell'emergenza e della ripartenza. Rispondono a due analisi diverse, a due bisogni opposti. L'emergenza gestisce il pronto soccorso delle risorse per chi perde liquidità e posti di lavoro, per chi versi in povertà nuova o vecchia. La ripartenza invece deve pensare alla ricostruzione, avendo come bussola lo scandalo della fiducia nel futuro, fino all'idea di un vero e proprio nuovo miracolo economico. Il virus deve farci cogliere l'opportunità di ripensare in grande, molto in grande, i flussi dei commerci mondiali, la progettazione delle città, il valore della salute come priorità nei programmi dell'economia e della vita sociale, il peso della ricerca scientifica, per non dire del ruolo della finanza o dell'Unione Europea. Nulla sarà più come prima, lo sappiamo. Ora bisogna avere il coraggio di dire che tutto diventerà migliore. Il punto di Alberto Orioli. Le 13:41, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Nella prima parte avete sentito della valutazione del Centro Studi di Confindustria dell'impatto del coronavirus sulla nostra economia. Un 10% nei primi 2 trimestri, un 10% di calo pesante. Cerchiamo di capire adesso qual è la situazione in agricoltura. È con noi il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto, grazie Gianzanti. Allora, la preoccupazione del settore dell'agricoltura, che lei stesso ha rilanciato in queste ore, è legata al fatto che ci sono tutta una serie di raccolti da fare. È una fase intensa dal punto di vista del raccolto per l'agricoltura, questa fase della stagione, ma bisogna naturalmente rispettare le misure di distanziamento sociale, garantire le protezioni anche per i lavoratori. E poi c'è, voi dite, una questione di approvvigionamento proprio, ho usato una parola sbagliata forse perché è riduttivo, c'è una questione di mano d'opera, di persone. In Italia ci sono oltre 1 milione di operai agricoli, si stima normalmente, però in questo momento potrebbe non esserci sufficiente mano d'opera in campagna. Qual è la situazione, Gianzanti? Sì, la situazione è alquanto complessa. Noi in agricoltura mediamente abbiamo circa 1.100.000 operai. Ovviamente ci sono dei momenti di picco e ci sono dei momenti in cui invece ne abbiamo meno. La primavera, come voi potete immaginare, è un momento importante perché è un momento in cui ci sono i raccolti delle prime piantagioni orticole e soprattutto è un periodo in cui si programmano anche le raccolte estive e ci sono anche grandi operazioni, ad esempio, nei vigneti. In questa fase noi abbiamo la necessità di un surplus di oltre 250.000 unità lavoro e stiamo incontrando enormi difficoltà nel reperirle. Sì. Vuoi perché ovviamente dall'Europa, a via della diffusione del coronavirus, con tutti i periodi di quarantena imposto non si riescono più a trovare operai che venivano prevalentemente dall'est Europa, vuoi perché ovviamente i flussi sono chiusi, anzi per fortuna che il Ministero degli Interni ha voluto prorogare le misure fino al 15 di giugno per quelli già presenti in Italia. E quindi ci troviamo in una situazione alquanto complicata perché non riusciamo a trovare quegli operai di cui noi avremo bisogno. Che tipo di soluzione immaginate che possa esserci per questa situazione che è piuttosto importante? Insomma, perché poi chiaro, lo capisce chiunque, no? Di lì parte l'approvvigionamento poi dei generi alimentari per i supermercati, per la gente che ha bisogno, chiaramente. Posto che sia stato chiesto di produrre, noi lo stiamo facendo con enorme responsabilità, vuole anche con qualche paura perché siamo umani anche noi. Certo. Dall'altra ovviamente noi chiediamo in questa fase misure semplici per poter ricorrere a manodopera prevalentemente italiana. Oggi ci sono tanti italiani che non stanno lavorando a causa delle chiusure delle aziende non agricole, quindi ci sono richieste che ci arrivano e che ci danno la disponibilità di voler venire a lavorare in campagna. E quindi stiamo chiedendo strumenti di semplificazione per le assunzioni. Ci troviamo in una fase emergenziale, siamo in una fase quasi di guerra, è evidente che in queste fasi se vogliamo essere veloci, rapidi, dobbiamo avere strumenti che ci consentono flessibilità e velocità. Situazione straordinaria che richiede misure straordinarie, anche un cambiamento di paradigma, di pensiero, vale per chi sta organizzando la logistica, vale per voi, vale per il governo, ma vale anche per chi, come diceva lei, magari in queste ore decide di mettersi in gioco proprio perché ha perso un lavoro, oppure ha perso delle entrate e decide che invece è il momento di tentare anche questa strada qua, perché no? Questo sì, è possibile. Ci sono tanti giovani che oggi non possono studiare, che le università sono chiuse, ci sono tutti i camerieri del canale Horeca, quindi noi abbiamo chiesto dateci la possibilità di utilizzare solo in questa fase il voucher, oppure tutti coloro i quali percepiscono un reddito di cittadinanza, senza far perdere nessun diritto a chi percepisce il reddito di cittadinanza, poter usufruire di loro per un certo periodo temporale definito in campagna. In una fase come quella attuale, sì. Ritrovarci come italiani intorno all'agricoltura sarebbe secondo me uno straordinario risultato. Poi sì, va tenuto conto che ovviamente c'è anche una tendenza europea a cercare di proteggersi, quindi anche qui se andiamo incontro a sistemi di chiusura e sì. di blocco anche delle movimentazioni delle persone, noi necessariamente, visto che non possiamo fermarci, avremo sempre più bisogno di italiani in campagna. Gianzanti, però una domanda, siamo in grado di garantire nell'attività del lavoro in campagna le misure di distanziamento sociale, le misure di dispositivi di protezione personale e necessari, qualora siano necessari, perché si è a contatto eccetera, perché uno pensa si sta all'aria aperta, beh, ci sono meno problemi che per altre attività, però non è tutto così semplice, credo. No, non è tutto così semplice, certo il distanziamento in agricoltura è molto più semplice da operare, l'operare all'aria aperta è molto più facile, quindi anche laddove si ha difficoltà, perché bisogna dire anche con chiarezza che gli strumenti di protezione, fatto salvo i guanti, ma non è così semplice per nessuno oggi reperire mascherine, è anche giusto poi dare delle priorità a chi oggi ne ha bisogno e quindi partecipare certo. in modo al settore ovviamente della salute. Ma rispetto a questo ovviamente noi come imprenditori stiamo facendo il possibile per mettere i nostri operai nella miglior condizione di lavoro, quindi utilizziamo laddove le troviamo le mascherine, ma soprattutto permettiamo ai nostri operai in campagna di mantenere delle distanze giuste che possano evitare di diffondere contagio tra i nostri operai, anche perché nessuno di noi vorrebbe mai in nessun modo trovarsi nella condizione di dover gestire delle fasi emergenziali all'interno delle aziende agricole. Grazie Gianzanti, grazie per essere stato con noi il presidente di Confagricoltura. Voi. Allora, Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ben ritrovato. Mi è piaciuta questa intervista. Coraggio, creatività, flessibilità, ci sarebbero anche gli sportivi eventualmente. Andare a lavorare nei campi. Al momento disponibili, sì. Sono disponibili, sì, no, ma sì, perché... no, scherziamo, no, però secondo me c'è poco da ridere perché è davvero questo l'orizzonte, no? E sarebbe, perché no, sarebbe un messaggio. Però sì, intanto aspettiamo che arrivi il messaggio di questo famoso taglio degli stipendi. Sì, c'è però... molta attenzione da parte dell'opinione pubblica, taglio degli stipendi, sì. Vediamo, ieri era in programma una riunione dei vertici dell'associazione giocatori con i club, con la Lega eccetera, non c'è stato, tutto rinviato, tutto come prima. E insomma adesso il grande dibattito è si potrà ricominciare a chiudere la stagione oppure no. Le date le conosciamo, le deadline le conosciamo, non c'è unanimità di valutazioni, c'è chi questo pure lo sapeva, spinge per non è una gran sorpresa, spinge per ricominciare, chi invece, anche facendo prevalere qualche interesse di bottega, preferirebbe chiudere qui anticipatamente. Questo è il grande dibattito che affronteremo, poi avremo Marino Bartoletti e Leo Turrini attesissimi con un grande ospite del Bar Tour che è Iuri Checchi, signore degli anelli. Ieri sono ufficiali le nuove date delle Olimpiadi spostate di 364 giorni al 23 luglio 2021. Benissimo, grazie Carlo, ti ritroviamo con anche con Iuri Checchi, tutti convocati dopo il GR delle 14. Break.